E torniamo in studio, o meglio, torniamo in diretta con un contatto che non è in studio, come sentite dai rumori di fondo, un contatto che abbiamo attivato con la città di Bologna, con uno degli attivisti che si sta in questi giorni adoperando per dare vita a un appuntamento che si svolgerà a fine maggio, a cavallo fra maggio e giugno. Una 5 giorni dedicata alle culture antifasciste, una 5 giorni appunto bolognese, ma con un respiro nazionale e non solo, che cercherà di fare il punto sul dibattito che nelle varie città si sta costruendo intorno a quello che poi tu, non potendo ascoltare, penso, la trasmissione fino a poco fa, abbiamo proprio ragionato su quello che sta accadendo a Roma, cioè sicuramente uno spostamento culturale che, per quanto magari anche nominalmente non faccia, diciamo, riferimenti alla cultura della destra e del neo-post-fascismo, come lo vogliamo chiamare, comunque sta sensibilmente trasformando il nostro vivere quotidiano in chiave sicuramente restrittiva delle nostre libertà e delle nostre agibilità a cui ci eravamo in qualche maniera abituati. Se ti lascio la parola, appunto, con questo spunto per parlarci di quelli che sono poi stati le motivazioni che vi hanno portato ormai tempo fa a indire questa 5 giorni. Sì, ciao, allora intanto saluto a tutti e a tutte. Sì, da questo fondamentalmente mi riprendo da quello che dicevi, già dalla fine dell'anno scorso in verità è da tempo che abbiamo questa percezione di come ci troviamo di fronte a un fascismo tutto diverso da come era quello storico, anche quello affrontato dal movimento negli anni 70. Qui la società sta cambiando, il fascismo si sta rinnovando in forme differenti. Noi lo pensiamo su tre livelli fondamentalmente: quello di governo, che produce le leggi, che fanno i danni che sappiamo, in particolare per i migranti, che sono oggi il principale obiettivo di questa nuova destra rampante, di questa nuova destra così aggressiva, in quanto nuova classe sociale, in quanto calmiere sul prezzo del lavoro, sul mercato, eccetera. E comunque, come dicevo, la destra di governo, sotto ci sono i gruppi che li conosciamo, dell'estrema destra, Casa Pound, piuttosto che Forza Nuova, piuttosto che La Fiamma, eccetera, aggressivi, pericolosi e violenti, ma che nonostante questo non sono il problema principale, perché quello veramente più grosso è il terzo livello, è quello della destra sociale, della destra non consapevole di chi di fatto sostiene questi altri due livelli, un consenso fatto di approvazione per le ronde, per i decreti contro i clandestini, per l'aggressione sociale nei confronti dei migranti. Ecco, questa è la parte più pericolosa, è quella sulla quale è più necessario un intervento che deve essere culturale prima di tutto, perché si tratta di una scultura, di un abbattimento della cultura fatta da anni di modello berlusconiano da una parte, ma di incapacità anche della sinistra di gestire la trasformazione sociale in atto. E da questo siamo ripartiti, abbiamo pensato che era il necessario, assolutamente era il momento, era il caso di cominciare a darci degli strumenti culturali, più che darci, di raccoglierli, perché gli strumenti culturali ce li abbiamo, in giro per tutto questo paese ci sono tantissime proposte, iniziative, operatori culturali piuttosto che centri che producono molto, veramente tantissimo, in chiave antifascista, alcuni in chiave antifascista militante, altri in chiave antifascista sociale, con la propria attività. E quindi abbiamo organizzato questi 5 giorni che, se da una parte dovrebbe servire anche ai compagni un attimo per ritrovarsi, perché ognuno sui propri territori lavora autonomamente, improvvisando, reagendo, spesso in difesa, piuttosto che comunque in una modalità locale. Mentre invece i fascisti lavorano sul piano nazionale, anche le piccole organizzazioni o quelle più grandi hanno strutture gerarchiche e nazionali. E quindi è il caso di confrontarsi, stabilire delle linee indicative, insomma cercare di capire come certe campagne possono essere nazionali e non solo sul territorio romano, piuttosto che su quello lombardo. E poi creare queste reti, cioè rafforzarle più che altro, queste reti di riferimenti, di libri, di spettacoli teatrali, di musica, di film, di fumetti. Ecco, tutto questo che passando da Bologna, poi possa ritornare sui territori, dalla Sicilia alla Lombardia, dal Piemonte al Lazio. Ecco, questo, in questi 5 giorni abbiamo messo assieme una cosa tipo 90 eventi in un contesto che sarà di vita comune, campeggio all'interno di questo parco importante anche per Bologna, perché è un luogo della memoria. Il Parco delle Caserne Rosse è stato un campo di concentramento e smistamento di deportati verso la Germania. E lì dentro vivremo per 5 giorni questa esperienza di condivisione, di autogestione e di incrocio anche di radici differenti dell'antifascismo. Senti, ti interrompo sempre perché su un punto penso abbia senso fare una riflessione. Ovviamente è stato anche molto, diciamo, è anche talmente vasto il programma che ha magari poco senso soffermarci su questa o quella iniziativa, perché è vero che se gli ascoltatori vanno sul sito www.fest-antifa.net troveranno un programma veramente veramente veramente corposo, e proprio per questo però penso abbia più importanza magari soffermarsi su un aspetto che ci ha anche colpito da Roma, ed è quello della preparazione, un metodo di preparazione che ha seguito delle direttrici abbastanza inusuali, perché ha avuto un'apertura quasi a 360 gradi, nel momento in cui gli stessi appelli e le stesse parole d'ordine che hanno lanciato questo festival sono state costruite online col sistema del wiki, e quindi un meccanismo di orizzontalità e trasparenza, diciamo, sicuramente non di tutti i giorni. Penso sia un po' anche il metodo, ovviamente in sé rappresenta anche un contenuto quando si tratta di questo tipo di iniziative, no? Certo, assolutamente. Allora, su questo c'è da una parte una scelta politica, dall'altra una scelta di cultura tecnica. La scelta politica è stata praticamente nella politica che è un po' qui a Bologna da qualche anno che stiamo cercando di seguire, cioè che sull'antifascismo allarghiamo il più possibile. Abbiamo iniziato qualche anno fa e siamo passati da quei manifestazioni che vedevano 50 militanti, 70, a manifestazioni di 2-3 mila persone, perché avevamo veramente scelto di assolutamente partire prima dal coinvolgimento e poi dall'iniziativa, e quindi coinvolgendo la comunità LGBTQ piuttosto che l'associazionismo di base, piuttosto che ANPI e altre entità. E questo devo dire che, almeno so per certo che anche in altre città, ma certamente qui a Bologna ha giocato e ha fatto sì che le cose antifasciste fossero quantomeno adeguate. E dall'altra parte le soluzioni tecniche per aprire l'uso degli strumenti, appunto come dicevi, i wiki, ma la modalità della costruzione in rete dell'evento, del coinvolgimento attraverso la rete, è un po' un'eredità che abbiamo, molti di noi hanno lavorato negli anni scorsi sugli hack meeting piuttosto che su questo tipo di eventi e su questo tipo di comunità distribuite, e quindi anche su questo, insomma, sì, la massima apertura, l'uso degli strumenti informatici, la rete. Devo dire che tornare un attimo alla scelta politica, noi abbiamo deciso di proprio anche per sgombrare il campo da tanti problemi, ambiguità o altro, che questo festival non raccoglierà i listoni delle adesioni, degli spazi piuttosto che delle associazioni dei gruppi. Le uniche firme che abbiamo voluto mantenere sono quelle dell'ANPI, dell'associazione delle vittime del nazifascismo, sia durante la guerra che del dopoguerra. Infatti avremo anche quelli della Uno Bianca piuttosto che Ustica, e queste ci piaceva tenerle, cioè è stata una scelta consapevole tenere loro, e gli altri arriveranno tutti come antifascisti. Riteniamo che sia il minimo comune denominatore delle anime della sinistra oggi in Italia, che possa ancora portare delle risposte importanti a livello nazionale, e quindi anarchici, comunisti, autonomi, rifondaroli, tutti sul berretto senza divisa, però lì ci saremo tutti quanti, come lo abbiamo fatto qui a Bologna, lo stesso coinvolgimento lo abbiamo richiesto a livello nazionale, quindi posso dire che sembra che stia funzionando, insomma, infatti di affermazioni di partecipazione ce ne sono veramente molte, anche dal basso, insomma. Va bene, io non ho nient'altro da aggiungere, se non che su appunto www.fest-antifa.net troverete tutte le indicazioni per raggiungere Bologna. È un programma dettagliatissimo, così anche da appunto, anche magari per chi si muove da Roma, anche scegliere i giorni, anche perché ricordiamolo, in questi sono purtroppo, insomma, una coincidenza che speriamo non, insomma, non tocchi la buona riuscita di entrambe le iniziative. Sapete, a Roma il 30 giugno proprio ci sarà, il 30 maggio scusate, ci sarà una mobilitazione proprio su anche una parte di queste tematiche, cioè quelle più specificatamente legate alle politiche di sicurezza e alla stretta autoritaria, specialmente delineata nelle politiche della migrazione, con il G8 sulla con le mobilitazioni contro il G8 su sicurezza e politiche migratorie, che si svolgerà proprio a Roma. Quindi ovviamente per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici l'invito è quello a visitare il sito e avere così un più chiaramente possibile la possibilità, insomma, di raggiungere Bologna nei giorni tra il 29 maggio e il 2 giugno, se non sbaglio. 2 giugno, che sarà una festa della Repubblica Antifascista. Va bene, ti d'accordo. Saluto e ovviamente, insomma, ci sentiamo anche magari in corso d'opera, così da farcelo raccontare in diretta. Va benissimo, okay. Saluti a tutte le compagne e compagni romani. Ciao.